9 in punto, una buona giornata ascoltatori e torna Pensatech come ogni venerdì. Una buona giornata agli ascoltatori, una buona giornata a Elisabetta Tola che finalmente è tornata tra noi. Finalmente una buona giornata ascoltatori e ascoltatrici, abbonati e abbonate di Città del Capo, e buongiorno Damiana. E allora questa mattina anche noi ci lasciamo per forza contagiare da quello che è il dibattito in primo piano. Stiamo parlando del dibattito politico, c'è ancora molta incertezza su quello che sarà il futuro governo di questo paese. Allora noi cerchiamo di andare a cogliere alcuni argomenti collaterali a questo, e allora andiamo a vedere se la vera sorpresa, o meglio il boom come dicono loro, di queste elezioni è stato il Movimento 5 Stelle. Movimento 5 Stelle che ha sempre fatto di internet e del mondo online un vero e proprio cavallo di battaglia. Andiamo a vedere effettivamente quali possono essere gli strumenti in campo per creare una politica diversa. Movimento 5 Stelle, grillini che del mondo del digitale hanno sempre fatto un luogo da contrapporre anche a quelli che sono gli strumenti tradizionali, la politica tradizionale, ma anche la stampa, l'informazione più tradizionale. Insomma, andiamo a vedere se effettivamente questi strumenti, che anche a loro dire sono ancora sperimentali, possono sostituire. Ma infatti è uno degli elementi che in questi giorni naturalmente è frutto ed è, come dire, anche spunto di riflessione, proprio quanto la rete possa veramente giocare un ruolo politico, non soltanto come dire come ambiente di frequentazione dei social media, proprio come luogo della costruzione di un pensiero collettivo distribuito e partecipato. E quindi questa è sicuramente una delle cose a cui dovremo guardare sempre più anche nei prossimi tempi, perché almeno la mia sensazione, Damiana, non so se naturalmente condivisa, lo chiediamo agli ascoltatori di dirci anche la loro opinione, è che in realtà ancora una volta in questo paese queste elezioni denotino così un paese a due velocità, un paese che si incontra in rete e un paese che in rete ci va molto poco, perché naturalmente le considerazioni, le riflessioni fatte prima, durante e poi a fronte dei risultati di queste elezioni sono molto diverse a seconda del mezzo di comunicazione a cui ci riferiamo. Sì, infatti possiamo dire chiaramente anche che il dato di sostanziale tenuta, per quanto comunque ci sia stata sicuramente una perdita del PDL, della figura di Berlusconi, ci dice che comunque la televisione in Italia ha ancora una sua importanza. Cosa ne pensate voi? Come vi rapportate alla rete? Credete che la rete possa essere uno strumento nuovo che possa rinnovare la politica, in cui si possano ricreare le situazioni orizzontali del mondo vis-à-vis delle assemblee pubbliche? È possibile questo? È possibile portarlo al governo di un paese? I nostri contatti, l'SMS è il 348-7649-289, la mail è diretta @radiocittadelcapo.it, ma come sempre anche i nostri strumenti dei social network, Facebook sulla pagina di Radio Città del Capo e poi su Twitter @PensaTech con il CH. Noi aspettiamo i vostri messaggi. Un'ultima cosa per inquadrare l'argomento di oggi: ricordiamo che il Movimento 5 Stelle non è formato dai tradizionali circoli come i tradizionali partiti, ma da Meetup, ricordiamo, è una piattaforma di incontro e di coordinamento di gruppi online. I Meetup riguardano tutto il Movimento 5 Stelle, tutti i gruppi del Movimento 5 Stelle, mentre invece c'è ancora un punto interrogativo su quello che è lo strumento da utilizzare per le decisioni, cioè come si prendono le decisioni. Queste ore credo che la domanda la riportino in maniera sempre più pesante. Il partito pirata in Germania utilizza una piattaforma che si chiama Liquid Feedback, uno strumento a delega liquida. Magari vedremo poi più nel preciso di cosa stiamo parlando. Alcuni grillini criticano questa piattaforma dicendo proprio che, per quanto liquida, comunque esiste un meccanismo di delega. C'è quindi tra le possibili alternative una che si sta spicca per il progetto che viene portato avanti, arriva da Agora 2, dal progetto Agora 2.0, si chiama iResis, è una piattaforma proprio per la democrazia diretta. È nata da alcuni attivisti del Movimento 5 Stelle, ma si dichiara comunque indipendente. Allora, io vi propongo adesso di sentire un po' di musica e andiamo a cercare il nostro ospite, che è Nicola Giulietti, che ci parlerà proprio direttamente di iResis, di questa piattaforma. E allora, democrazia diretta, democrazia online, dicevamo appunto che una possibile alternativa alla piattaforma Liquid Feedback viene proprio dall'Italia, si chiama iResis e noi abbiamo al telefono Nicola Giulietti, referente per la grafica ma anche per la comunicazione del progetto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti. Prima di tutto, come è nato il progetto? Ma il progetto iResis è nato dall'unione di due progetti italiani che si sono uniti tra loro, il progetto Agora 2.0 e il progetto Democracy Online. E entrambi questi due progetti sono nati un po' dalla necessità, diciamo, di creare uno strumento di cui si sentiva bisogno all'interno dei gruppi che si vogliono organizzare in modo democratico. E questo non sempre è facile, soprattutto quando i gruppi sono numerosi. E adesso esistono numerosi strumenti per elaborare proposte, per votarle, per diciamo per anche discutere all'interno di un gruppo, però non esiste uno strumento solo che permette di fare tutte queste cose insieme in un unico strumento, insomma, in modo semplice e organico, per cui insomma sentivamo la necessità e abbiamo provato a crearlo noi. Abbiamo accennato a Liquid Feedback, quali sono le differenze? Ma le differenze sono che Liquid Feedback è fondamentalmente uno strumento di votazione. Non permette, per esempio, di discutere le proposte, permette di inserire delle versioni alternative, di votarle, però manca tutto quello che sta a monte. Ma questo può essere fatto in altri strumenti, però. E appunto quello che noi vogliamo fare è far trovare le persone tutto in un unico posto, perché veramente così è più facile partecipare. E poi anche il fatto che sicuramente iResis è pensato un po' come un social network, quindi è più facile da utilizzare, invoglia anche di più la partecipazione, e appunto ci sono tutta una serie di funzioni che in Liquid Feedback mancano, ad esempio la possibilità di sviluppare delle proposte a più mani, discutendole anche punto per punto. Ora, soprattutto riguardo a questo, stiamo inserendo anche nuove funzioni che permetteranno, insomma, di rendere il nostro strumento sicuramente uno dei più avanzati sul panorama delle democrazie. Ci sono già dei gruppi che lo stanno utilizzando e quali sono le possibilità in più, insomma, che si sono venute a creare con questo strumento? Allora, i gruppi che lo stanno utilizzando per adesso non sono moltissimi, perché la versione 1.0, quindi la versione iniziale, anche se prima c'era insomma una versione di prova, è uscita verso fine dicembre, quindi insomma è uno strumento ancora giovane e si sta rapidamente crescendo. E ci sono dei gruppi del Movimento 5 Stelle che lo utilizzano, insomma che lo stanno sperimentando, sia per esempio in Emilia Romagna, che ne sono diversi, a Rimini, a Parma, e poi c'è un gruppo, per esempio una lista fuoriuscita dal Partito Pirata, il Movimento Pirata Italiano, che siccome il software open source è il nostro, così come Liquid Fiber, che lo ha installato in un proprio sito. E c'è un sindacato, ad esempio, che ora sta iniziando ad utilizzarlo, un sindacato di ferrovieri. Ci sono delle associazioni, ad esempio un'associazione dello SHEC, che è una moneta alternativa, forse ne avete sentito parlare. Sì, probabilmente sarà uno degli argomenti in lista del nostro programma. Giulietti, proprio il Movimento 5 Stelle in questi giorni sta portando con più forza la domanda: è possibile utilizzare questi strumenti anche ad alto livello? Passiamo a questo punto al governo, perché stiamo parlando in queste ore anche di quello. Per quanto riguarda l'organizzazione, diciamo, interna di un partito, di un movimento a livello nazionale, è pensabile. Per quanto riguarda il PIB, proprio per amministrare un paese, su questo insomma ancora ci sarà da lavorare, perché comunque anche queste innovazioni delle democrazie procedono passo per passo. Per cui l'inserimento, diciamo, a livello nazionale forse non è una cosa che può essere fatta subito, però chissà, forse in un futuro. Forse i desideri in questo momento stanno superando un po' quelli che sono i processi tecnici per riuscire a dare risposta a questo desiderio. Le chiedo un commento anche riguardo a quella che è l'evoluzione adesso del Movimento 5 Stelle con questi tipi di piattaforme. È una mia ipotesi, però c'è stata una sorta di caduta per quanto riguarda il rapporto con il 5 Stelle e queste piattaforme quando ci sono state le parlamentarie. Molti dicevano che sarebbe utilizzato Liquid Feedback, comunque uno strumento trasparente. Le parlamentarie di fatto hanno utilizzato un software di cui non si conosce l'origine. Non so se lei si è fatto un'idea di come si è arrivati lì e perché non si è utilizzato un altro strumento. Ora questo qui non sono la persona giusta per risponderle, perché insomma ne so quanto è lei in fin dei conti. Evidentemente c'era la volontà di muoversi in altro modo rispetto a quella di utilizzare uno strumento che permettesse di prendere decisioni forse anche su decisioni un po' più controverse, più su cui magari era difficile trovare un accordo all'interno del Movimento 5 Stelle. Ecco, però dovesse ripetersi un'occasione di questo tipo, immaginiamo che possa succedere nei prossimi mesi e anni di vita del Movimento, che naturalmente è molto vivace proprio, no? in questa fase sicuramente, la vostra piattaforma Eresis potrebbe essere uno strumento che aiuta anche una situazione di questo tipo, cioè quella di una consultazione tutto sommato aperta non solo agli iscritti, ma anche a un po' a tutti quelli che naturalmente sono interessati a prendere una posizione. Sì, questo sicuramente. Noi abbiamo invitato il Movimento ad utilizzare il nostro software in più occasioni. Insomma, è uno strumento utilizzabile gratuitamente da tutti, quindi insomma l'invito è aperto a tutti, così come è aperto al Movimento. E speriamo che vogliano utilizzarlo, ecco. Un'altra domanda, Giulietti, dopo la lasciamo andare, ed è questa: quanta competenza ci vuole per usare uno strumento così? Naturalmente noi sappiamo che appunto stiamo parlando qui e lo spunto è ovvio, è quello politico, l'abbiamo detto in apertura, e quindi di un movimento che comunque ha una storia di frequentazione della rete, di consultazione in rete molto intensa. Ma in generale la fortuna di queste piattaforme anche nei prossimi mesi e anni naturalmente sarà anche quella di coinvolgere sempre più anche altri pezzi di popolazione. Quanta competenza ci vuole? Molto semplice, immediatamente utilizzabile, bisogna essere già degli abili frequentatori dei social network. Come funziona? Ma noi abbiamo cercato di creare uno strumento più semplice possibile, proprio perché appunto gli strumenti che già c'erano erano un po' difficili da utilizzare, abbiamo cercato di fare qualcosa di più semplice. Andando su www.eresis.it si può provare e vedere insomma, in prima persona se è semplice oppure no da utilizzare, penso lo sia. Stiamo comunque cercando di renderlo sempre più intuitivo, sempre più semplice, grazie anche ai consigli degli utenti. E quindi ai feedback che Sì, ricevete. esatto. Allora abbiamo anche noi twittato dal nostro account @pensatech, abbiamo twittato il link a Eresis, quindi invitiamo tutti ad andare a vedere questa piattaforma, provare a utilizzarla anche per piccoli gruppi e quindi dare feedback, come ci dice ora Nicola Giulietti, proprio per un uso, perché naturalmente l'uso di queste piattaforme non solo per strumenti di decisione politica, anche se questa ambizione c'è e naturalmente per molti di noi è interessante andare a vedere come potranno essere utilizzati e come cresceranno, date quindi feedback e usatela. Noi intanto ringraziamo Nicola Giulietti di Airesis per averci così aiutato a entrare un po' anche in questo nuovo strumento che dal punto di vista, perlomeno per quello che ho potuto vedere io nelle discussioni in rete del Movimento 5 Stelle, sta gradualmente, diciamo, sostituendosi al Meetup, che è la tradizionale piattaforma d'incontro che non permetteva appunto tutta una discussione, una presa di decisione così condivisa, e insomma vedremo se questi nuovi strumenti hanno maggiore potenzialità e maggiore forza. Grazie Nicola Giulietti. Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, grazie a Nicola Giulietti. E noi a questo punto continuiamo con la nostra trasmissione e lo facciamo andando a toccare un altro argomento, diciamo, trasversale e collaterale a quella che è la sorpresa delle elezioni politiche. Come cambia l'informazione e la l'informazione in rete anche con i cambiamenti politici. Tra pochissimo andremo a sentire il nostro nuovo ospite, che è Pierluca Santoro, e ora invece adesso vi lasciamo a un po' di musica. Queste le note, come sempre, digitali che ci accompagnano e fanno un po' da contrappunto al nostro Pensatech, ma adesso andiamo a parlare di informazione politica. Infatti lo facciamo e do subito il buongiorno a Pierluca Santoro, Pedro El Rey in Twitter, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a voi. Allora, il blog di Pierluca Santoro, il giornalaio, è una delle, come dire, luci che in rete ci guida e commenta quotidianamente lo stato dell'editoria, non solo sul fronte, come dire, di quelli che sono i contenuti editoriali, ma anche della macchina editoriale. Pierluca Santoro è un conoscitore anche di quello che è tutto il marketing editoriale, e con te stamattina volevamo partire un po' da fare una fotografia su che cosa è successo successo in questi giorni sui media, anche quelli tradizionali, chiamiamoli tradizionali per distinguerli naturalmente dalle piattaforme solamente digitali, insomma. Le elezioni sono un momento di punta naturalmente per l'informazione, credo che in molte redazioni per le passate settimane non si sia parlato quasi d'altro. E cosa è successo? C'è stata una fruizione diversa? Ci sono stati degli andamenti particolari che hai potuto osservare? Ma c'è stato sicuramente un incremento dell'interesse online. I numeri di Audi Web Report dell'ultimo mese mostrano come per tutto il mese ci siano stati valori superiori a quelli che sono gli utenti unici medi, tanto per fare un esempio, diciamo che Repubblica viaggia intorno al 1,5 milioni di utenti unici al mese, per tutto il mese di febbraio è andata a 2 milioni di browser unici o anche più. Quindi complessivamente le persone hanno consultato maggiormente le fonti di informazione durante la campagna elettorale. Dopodiché proprio il giorno dello spoglio, quindi la seconda giornata delle votazioni, il 24, c'è stato un fortissimo picco, hanno triplicato gli accessi, il numero di pagine viste. La Repubblica.it ha fatto 86 milioni di pagine viste quel giorno, e anche tutti gli altri, Il Fatto, La Stampa e Il Sole, hanno fatto numeri davvero straordinari. Ripeto, più del doppio, del triplo del solito. Guardando poi i dati aggiornati da Audi Web Report, me li dà aggiornati al 27 di febbraio, si vede che dopo il picco del 25 già si scende a livelli molto simili a quelli che sono stati i valori del mese di febbraio, quindi sono già scesi intorno di nuovo ai 2 milioni di utenti unici. Questo vuol dire quindi che le piattaforme web dei media tradizionali, diciamo, ancora sostanzialmente dominano, sovrane per quanto riguarda l'informazione in rete? Ma facciamo, io appunto ho fatto una piccola elaborazione proprio ieri. Da questa elaborazione emerge che fondamentalmente Corriere della Sera e La Repubblica nelle loro edizioni online fanno da sole circa, a seconda dei giorni, circa il 50% del totale del traffico sull'informazione. Quindi queste due corazzate, anche sulla carta stampata, si confermano ancora più leader. Quindi in realtà sulla in rete, se vogliamo, c'è ancora una maggior concentrazione che non sulla carta stampata. Che non in edicola, ecco, che non dal giornalaio, propriamente esatto. Detto. Ecco, Pierluca Santoro, quanto però, facendo adesso un'analisi naturalmente per quello che abbiamo in mano al momento, ecco, però quanto è stata determinante secondo te in questa fase elettorale l'informazione nell'orientare il voto? Molti di noi il mattino dopo si sono svegliati pensando non avevamo capito nulla, o forse non avevamo capito le proporzioni quantomeno. Era possibile attraverso la rete o attraverso i media capire che il voto sarebbe nato in questo modo? Dei segnali sicuramente c'erano. Diciamo una cosa che sanno tutti, ma che forse vale la pena di ricordare. Certo. Ovviamente i giornali sono fortemente condizionati dalla politica e a loro volta fortemente la condizionano, no? Tant'è che sappiamo che in Italia la maggior parte degli editori non sono editori puri, sono editori che in realtà hanno tutt'altro interesse rispetto all'editoria, no? Quindi già questa è una prima indicazione. Per esempio il Corriere della Sera, ma solo per citare un caso concreto ovviamente, il Corriere della Sera nel mese di febbraio ha fatto oltre il triplo delle menzioni di Monti rispetto a tutti gli altri candidati come Premier, perché evidentemente aveva in qualche modo interesse, mettiamola in questi termini. Dopodiché i risultati ci dicono che in realtà questo push informativo del quale Monti più di ogni altro, più di Berlusconi e di Bersani, per citare i tre che teoricamente erano i più importanti, Monti ha avuto moltissime citazioni da tutta la stampa al di là del Corriere della Sera, eppure questo è servito relativamente poco a rotentare il voto. Abbiamo ancora un minuto con Pierluca Santoro e naturalmente tantissime cose da chiederti, quindi già ti prenotiamo per una futura puntata di Pensatech, perché l'editoria in questo momento è anche in grande crisi, quindi abbiamo veramente un minuto. Però il Corriere della Sera, che abbiamo citato, quindi partiamo da questo caso, proprio il giorno delle elezioni esce un comunicato redazionale che dice: siamo qui per puro senso del dovere. Ecco, grande crisi, ma la fase elettorale in qualche modo viene anche usata dalle per ricordare il ruolo dell'informazione. Beh, grande crisi sì, perché appunto, come sappiamo, i ricavi che la carta stampata, soprattutto in termini di revenues pubblicitarie, generava fino a poco tempo fa, non si riesce assolutamente a compensarli con i ricavi dal digitale, dall'online, tant'è che Scott Giovane, in un'intervista su Prima Comunicazione di questo mese, dichiara che loro come obiettivo hanno di arrivare nel 2015, se non mi ricordo male, ad avere una quota di ricavi dal digitale pari al 25% del totale fatturato. Quindi vuol dire che nel 2015 il 75% dei ricavi sarà ancora dalla carta. E quindi naturalmente queste proporzioni ci dicono molto di come la nostra percezione a volte del ruolo della rete non abbia una ricaduta anche di tipo economico. Credo che siamo in chiusura, Damiana, e c'è però un messaggio che vogliamo leggere. Sì, il nostro ascoltatore, o almeno il nostro ascoltatore Paolo, sembra essere molto pessimista su quello che riguarda il ruolo della politica online. Dice: la rete è l'antitesi della politica. In una società afona, sempre più egoista e individualista, il futuro è la piazza, i bar, guardarsi e parlare per pensare insieme il nuovo. Sicuramente, insomma, non condivido forse questa visione così pessimistica, però c'è un altro ascoltatore via mail che ci ricorda il ruolo di vedersi vis-à-vis, e insomma anche i fatti di questi giorni lo dimostrano, perché non so quali possibilità abbia internet nella vita politica, ci scrive Stefano, però una cosa mi ha colpito: i parlamentari di 5 Stelle intervistati hanno detto che devono incontrarsi a Roma, forse fine settimana, forse all'inizio della prossima, insomma, perché si devono conoscere di persona, perché non possono fare tutto attraverso la rete, se non ci riescono loro a sfruttare questi mezzi, chiede Stefano. Insomma, probabilmente è perché ogni mezzo non è sostitutivo dei precedenti, dell'altro. Ma forse però può creare qualche potenzialità in più. Sono le 9:29 minuti. Spunti su cui naturalmente torneremo prossimamente anche con Pierluca Molto Santoro, volentieri. Grazie per essere stato con noi, grazie, e buona giornata. Noi salutiamo il nostro ospite Pierluca Santoro e salutiamo anche i nostri ascoltatori. Ciao anche Elisabetta. Ciao Damiana, appuntamento alla prossima settimana, oppure in rete. Twitter @PensaTech, scriveteci. Ciao. Come sempre. Ciao.